sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 17 febbraio, 16.30, primi 47 secondi, in diretta qui da Milano, Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Come sempre, richieste di puntate, ospiti, temi o critiche, opinioni diverse su quello che avete sentito, o se non avete fatto in tempo a telefonare, comunque mandatemi, perché rispondo, tento di rispondere, come molti sanno, a tutti coloro che scrivono. Allora, l'argomento di oggi è una puntata dedicata a una cosa positiva, perché ogni tanto le cose positive avvengono e ogni tanto si ha anche la dimostrazione, come dovrebbe essere poi in una sana democrazia, che protestare dal basso ottiene degli effetti, cioè c'è chi ascolta, ammette un errore e lo corregge prima che sia troppo tardi. E allora in questo caso è il caso di parlarne, di attribuire i giusti meriti e di sentire l'opinione di chi molto ha protestato in queste settimane di inizio anno e a quanto pare appunto è stato ascoltato. Di che cosa parliamo? Del fatto che stamattina abbiamo avuto una notizia, la notizia è che una misura del governo che è all'esame e in questi giorni in Parlamento, il governo fa marcia indietro rispetto a quanto aveva stabilito in legge di stabilità su due misure che riguardano molto da vicino il popolo delle partite IVA, i lavoratori autonomi e i freelance. Ne abbiamo già parlato a questi microfoni, abbiamo tratteggiato la nostra contrarietà, ma spiegata non in termini di difesa dei gruppi di interesse, del che cosa significasse per i freelance, le partite IVA, la parte ancora più debole delle partite IVA, l'aumento di diversi punti dei contributi dovuti alla gestione separata INPS in assenza di diritti, per così dire, e vi abbiamo spiegato di che cosa si tratta dalla malattia alle maternità e così via. E su questa prima vicenda questa mattina lo stesso Presidente del Consiglio, rilanciando un emendamento che era stato presentato nell'ambito della stessa maggioranza volto a stoppare questo aumento, il Presidente del Consiglio ha confermato che il governo fa marcia indietro. Contemporaneamente, nelle stesse ore, si aveva la conferma di una marcia indietro rispetto al massacro, lo avevamo chiamato così, che era avvenuto per il regime dei minimi, che voi sapete era stato modificato dal regime dei minimi con aliquota, sempre partite IVA, con aliquota al 5%, si era passate al 15%, di cui l'aumento record di apertura delle partite IVA a dicembre con un più 282% addirittura, perché tutti si erano affrettati a quel punto a poterne aprire una per rimanere nell'ambito del vecchio regime dei minimi. Ma anche su questo c'è la conferma ma di una marcia indietro, perché verrebbe protratto il vecchio regime dei minimi almeno per un anno per poi muoversi in una ottica di convergenza. Allora, io su questo il testo non ce l'ho ancora, però la conferma, e in questo caso si era mosso anche il sottosegretario al MEF Enrico Zanetti, data da Zanetti, è che il governo fa propria questa posizione. Allora, ci sono queste due cose positive, quindi popolo delle partite IVA che siete in ascolto, chiamate per dire come la pensate, vi fidate, non vi fidate, è positivo, è solo l'inizio di quello che serve per porre l'attenzione anche del governo sui lavoratori autonomi. Tante volte abbiamo detto che da questo punto di vista consideriamo anche il Jobs Act un'occasione persa, perché lì di lavoro autonomo non si parla, però insomma chiamateci e dateci la vostra opinione. In tutto questo, prima di presentarvi le due ospiti che abbiamo intorno a questo tema, vi devo dire un'altra cosa. Io stamattina molto presto, prendendo un aereo, leggendo i giornali, avevo avuto un colpo apoplettico leggendo di questa novità, di questa nuova tassa che il governo si apprestava a varare in questo stesso strumento, il milleproroghe, la cosiddetta tassa sul contante. E qualche giornale italiano spiegava che si trattava di tassare in forma di bollo i depositi superiori a 200 euro quotidiani in banca. Io devo dirvi la verità, quando ho letto questa cosa mi sono sfregato gli occhi dicendo: ma no, è marketing grasso, è uno scherzo, non è possibile. Ma davvero, tra me e me, mi sono detto, non è possibile. Per sì e per no, appena sceso dall'aereo stamattina alle 8, ho fatto qualche telefonata a qualche amico del MEF per dire: ma veramente fate? Scherzate o è una cosa seria? Ottenendo qualche risposta un po', devo dire la verità, purtroppo aperta all'ipotesi che fosse una cosa seria. Nel qual caso io, siccome sono amici che mi conosco da anni, ho letteralmente perso il controllo dicendo: ma siete completamente pazzi? Ma mettiamoci nei panni, per esempio, visto che la norma nasce in ambienti della maggioranza che sono convinti della tracciabilità della moneta, sono favorevole anch'io come misura anti-evasione, ma di qui a stabilire una tassa sui depositi sopra i 200 euro di contante quotidiani, una tassa su questo, che significa inevitabilmente per ogni negoziante italiano, per chiunque abbia un bar, una tabaccheria, un negozio di qualunque tipo che fa l'incasso quotidiano e lo fa, come sapete, per una buona percentuale, soprattutto in contanti, perché in carta di credito si paga quando si comprano i vestiti, le scarpe, eccetera, ma per i negozi di prossimità si paga in contanti. E a quel punto colpire l'esercente, che a quel punto va in banca a depositare, non è che i soldi li ricicla nella mano, va in banca a depositare, cosa facciamo? Li tassiamo. Io devo dirvi la verità, ho passato alcune ore incredulo e mi hanno detto: però no, aspetta, non attaccare, non criticare. Conclusione: il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha smentito radicalmente questa ipotesi alle 12:20, che però era presente a quanto pare sul tavolo del governo. Allora, io mi auguro che questa ipotesi faccia riflettere chi di dovere. Un conto è la lotta all'evasione, altro conto è inventarsi maniere per massacrare inutilmente chi, ripeto, non ha la minima intenzione di evadere. Incassa e deve portare in banca. Dove volete che li metta? Li dobbiamo indurre a metterseli nei sacchi a casa? È questo quello che vogliamo? Perché questo è l'effetto se ci mettiamo a tassare in questa maniera il deposito del contante. Detto tutto questo, per fortuna questo martedì si sta rivelando un martedì positivo, perché la smentita c'è stata. Però stiamo sempre attenti, perché come si vede la fantasia è fervida di idee un po' strambe. Torniamo all'argomento della nostra giornata. Le nostre due ospiti, abbiamo innanzitutto, e mi fa piacere riconoscerglielo come merito, la deputata del PD che è stata relatrice dell'emendamento che ha bloccato l'aumento dei contributi INPS per i lavoratori autonomi, l'onorevole Chiara Garibaudo. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei e a tutti voi, grazie dell'invito. E la presidente di Confprofessioni del Friuli Venezia Giulia, la Confederazione Italiana delle Libere Professioni, che è stata una delle sigle, insieme ad ACTA, ad altre eccetera, che in queste settimane molto ha protestato in maniera anche creativa con i tweet bombing eccetera eccetera, chiedendo al governo e al presidente del consiglio in prima persona di ripensarci su queste misure, come devo dire, iperpenalizzanti per gli autonomi, freelance e le partite IVA. Marinella Tinonin, buon pomeriggio presidente. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Possiamo, Presidente, cominciare con l'onorevole Gribaudo? Allora, onorevole, come al di là della soddisfazione, immagino, però... Assolutamente sì. Ecco, perché bisogna darle atto, lei è stata una voce che fin dall'inizio ha detto, bah, forse è meglio se ci ripensiamo. A questo momento, con l'impegno del Presidente... Avevamo passato una brutta vigilia di Natale. Ecco, ma visto che il Presidente del Consiglio gliel'ha anche riconosciuto, quello che voglio sapere è, nel suo giudizio, non voglio polemiche, si figuri contro il suo partito, il suo governo, ci mancherebbe altro, però voglio dire, questa scelta, come se l'è spiegata lei quando parlava della la brutta vigilia di Natale? Cioè, come è nata questa decisione di immaginare questo aumento contributivo, visto che, voglio dire, da tempo c'era una riflessione pubblica sull'effetto di una cosa di questo tipo verso migliaia e migliaia di lavoratori autonomi, che sono tra quelli che se la passano anche peggio, diciamo, non è che stiamo parlando dei grandi professionisti autonomi in questo caso. Lei che spiegazione si è data? Intanto ovviamente bisogna ribadire che questa crescita dell'aliquota INPS è figlia della riforma Fornero, quindi in realtà un conto è il regime dei minimi e quindi la revisione di tutta la parte fiscale, un conto è quello che era stato previsto da una riforma precedente. Che cosa abbiamo fatto? Perché poi in realtà questo è il secondo anno che ci troviamo ad affrontarlo, ma era decisamente più costoso, perché questa volta scattava di fatto di 3 punti percentuali l'aliquota, balzando quindi dal 27,72 attuali al 30,72. Quindi noi abbiamo dovuto trovare un bel po' di risorse aggiuntive. Noi abbiamo bloccato questa scelta perché naturalmente ci rendiamo perfettamente conto di come è importante quello che diceva lei molto bene all'inizio, cioè dobbiamo farci carico di quel pezzo di mondo del lavoro che è stato in qualche maniera più emarginato, ma che paradossalmente, se penso alla mia generazione, io ho 33 anni, ha utilizzato anche, se vogliamo, la partita IVA come strumento fondamentale per entrare nel mondo del lavoro, senza disperdere capacità, talenti e studi, e quindi era naturale che ovviamente ce ne interessassimo, ce ne occupassimo e alzassimo anche noi la voce, no? Perché è assolutamente un intervento doveroso che però va, per quanto mi riguarda, lo dico, deve essere solo l'inizio, no? Infatti buone anche le affermazioni del Presidente del Consiglio e del Sottosegretario Bellanova in questo senso, che ci dicono anche sulla maternità andremo avanti sui decreti delegati del Giovasse, quindi sul fronte dei diritti c'è ancora tanto da fare, come anche bisognerà rivedere, secondo me, per quest'anno si fa il blocco, ma un serio ragionamento di riflessione su quella manovra Fornero che vede, se no, l'aliquota crescere fino al 2018 fino al 33% per chi versa la gestione separata. Io penso che sia necessario fermarla adesso e usare quest'anno per fare una riflessione molto molto seria. Posso fare un'altra domanda? Nell'ambito, certo, della sinistra, non è che per caso c'è ancora un, come lo vogliamo chiamare, non è un pregiudizio, io lo capisco di fronte ad alcuni dati, se uno vede la cosa che anche Landini, eravamo in televisione insieme, ripete incessantemente ed è oggettivamente vera, lui dice guarda caro Giannino, puoi dire quello che vuoi, poi vatti a vedere che l'80% dell'IRPEF viene dai lavoratori dipendenti e pensionati, ne riparliamo. Allora, non è che questo comporti però una attenzione più bassa per ragioni storiche, tutto quello che si vuole, ma nei confronti di una parte consistente del mondo del lavoro che, come ha detto lei, poi si trova a fare la scelta dell'autoscommessa su se stesso, non è che lo faccia nel 100%, nell'80% dei casi perché è un liberista che dice non voglio dipendere da nessuno, ma perché rispetto a quello che offre il mondo del lavoro dipendente delle imprese dopo questi anni di crisi dice intanto scommetto su me stesso. Non c'è un ritardo culturale ancora da colmare secondo lei? Sì, assolutamente, oltre che qualche ritardo culturale, forse anche proprio qualche, mi viene da dire, tara ideologica o post ideologica, che assolutamente non possiamo permetterci, perché vuol dire chiudere gli occhi di fronte alla realtà e noi assolutamente non dobbiamo farlo. Beh, apprezzo la sua sincerità. Marina Tinonin, allora, innanzitutto, come ha preso la marcia indietro di oggi e poi Che cosa significa questo dal punto di vista vostro? È un primo passo, è un riconoscimento, adesso bisogna essere grati, è un primo mattone su cui costruire, come la pensa? Io mi ripeto e dico, è meglio tardi che mai, l'avevo detto già in un'altra trasmissione. Faccio riferimento specialmente perché questo fatto è successo proprio nella giornata in cui noi professionisti presentavamo al Senato della Repubblica il manifesto del lavoro intellettuale del catalogo dei diritti negati, e che era frutto di tutta una protesta che avevamo fatto nelle settimane passate proprio sulla mancata, sul mancato riconoscimento da parte del governo Renzi del rilancio dell'occupazione nel settore dei professionisti, perché la crescita e il rilancio dell'occupazione e crescita si erano indirizzate all'impresa e lavoro dipendente, non prestando o prestando poca attenzione al lavoro autonomo. Non dimentichiamoci che le persone giovani che non riescono a trovare lavoro dipendente subordinato si mettono a fare il lavoro professionale, cioè si inventano anche lavori che prima se non davano nessun tipo di garanzia, ma piuttosto che rimanere a casa dicono ok, apro una partita IVA, mi butto nel mondo lavoro, faccio crescere e girare l'economia. E in questo caso vediamo forse riconosciuto una gratificazione per i soggetti giovani, per queste migliaia di persone che si sono iscritte all'ultimo momento a dicembre proprio per pagare anche meno tassazione, e che comunque adesso vengono comunque premiati anche quelli che si erano iscritti da tanto tempo prima. Chiaro che è un piccolo passo, però io vedo positiva la cosa, perché il fatto che sia la maggioranza che l'opposizione abbiano lavorato assieme, collaborando per migliorare una problematica che stava diventando pesante e positivo. Allora, io intanto adesso chiamo i 60 secondi di informazione sul stradale, però visto che siamo arrivati a parlare del decalogo dei diritti inesistenti e trascurati, chiederei subito, quando torniamo, a Marina Tinonil di fare altri esempi, perché come sa e come è scontato, in questo momento arrivano molti sms di lavoratori dipendenti e pensionati che dicono è già, gli autonomi vincono e noi no. Adesso non voglio ripetere gli 80, il bonus di 80 euro è andato ai redditi dipendenti bassi e così via, eccetera eccetera. Non si tratta di cadere sempre in questa trappola di dividerci gli uni contro gli altri, si tratta di riflettere sul fatto che il cuore dei provvedimenti, sia i trasferimenti sia quelli sul mercato del lavoro fatti dal governo Renzi, hanno in mente il mondo del lavoro dipendente e delle imprese che danno lavoro dipendente, mentre c'era un comparto intero che non vi rientrava se non per aggravi, come succedeva sia dal punto di vista contributivo sia dal punto di vista fiscale con il regime dei minimi. Però forse Marinella, è il caso di ricordare qualcuno dei diversi diritti che rimangono ancora totalmente non soddisfatti per gli autonomi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, trasmissione dedicata a questo duplice ripensamento del governo, quindi stop all'aumento di 3 punti dei contributi per la gestione separata dell'INPS e stop alla modifica imperativa da subito all'inizio di gennaio che aveva massacrato il precedente regime dei minimi per i giovani fino ai 35 anni che avevano un'aliquota molto agevolata del 5% fino a 35.000 euro. La cosa rimane ancora per un anno e di fronte a questi due marce indietro, però con Marina Tinonin facciamo ancora qualche esempio di diritti non soddisfatti per questa parte del mondo del lavoro. Per quanto riguarda i professionisti, noi nel nostro decalogo abbiamo messo 10 punti che vorrei, mi piacerebbe ricordare. Abbiamo diritto di poter lavorare, abbiamo diritto a un compenso equo, abbiamo diritto a tutele del welfare, abbiamo diritto di poter andare in pensione, abbiamo diritto di avere gli stessi diritti delle attività imprenditoriali, un prelievo fiscale contributivo sostenibile, un credito accessibile, essere parte attiva del tessuto economico, più che altro siamo come parte attiva, non vorremmo essere considerati parte attiva, abbiamo il diritto di poter difendere i nostri interessi e vogliamo contribuire allo sviluppo del paese. Non sono parole retoriche, però teniamo conto che ogni giorno migliaia di giovani scelgono con coraggio di fare un'attività autonoma professionale. Ogni giorno oltre 2 milioni e mezzo di liberi professionisti, lavoratori autonomi, mettono in gioco sul mercato le proprie competenze professionali, offrendo servizi e prestazioni molte volte anche nei confronti delle istituzioni. Siamo anche a volte senza paracadute quando succede qualcosa, perché ci ammaliamo, non abbiamo indennità. C'è qualcosa sulla maternità, però abbiamo un infortunio, siamo a casa, dobbiamo pagare qualcun altro che faccia l'altro ore. Però ci siamo presi la responsabilità di avere questo tipo di attività e vogliamo portarla avanti al meglio. Teniamo conto, quando si parla di riduzioni di contributi, che comunque gli artigiani commercianti pagano il 23%, per cui chiedere a noi, come era stato chiesto, di pagare il 30% mi sembrava veramente una cosa... Sì, in termini equitativi era una disparità, una simmetria abissale. Una disparità enorme. Abissale. Consideriamo poi coloro che comunque hanno una copertura previdenziale, che poi fanno gli amministratori o comunque altre attività che rientrano a gestione separata, comunque pagano anche l'INPS, 23%, non è poco. No, assolutamente. Allora, qualche telefonata e poi torniamo all'onorevole Gribaudo. Cominciamo con Matteo da Verona. Matteo, prego. Sì, buonasera a tutti, io appunto chiamo da Verona, sono di ACTA, quindi l'Associazione dei Consulenti del Terziario Avanzato, e oggi festeggiamo una vittoria della nostra associazione insieme alle altre associazioni che si sono battute, e approfitto per invitare questa sera a Milano al piano C, dove faremo la diretta anche con Ballarò. E il mio motivo della mia telefonata è però perché noi come associazione ci scontriamo ogni volta con delle figure che si occupano di questi temi, ma che dimostrano di non conoscere minimamente la materia. Ci propongono delle cose partendo da una visione che è al di fuori della realtà. Sembra che non conoscano nessuna partita IVA, che non abbiano mai vissuto mezza giornata con una partita IVA, o che non abbiano per loro passaggio avuto mai bisogno di fare una fattura. Si parla sempre delle giovani partite IVA che sono un tentativo di rimettersi per recuperare, ma c'è anche una parte che ha scelto questa vita e che vuole vivere e fare questa vita qui, anche se non ha 18 anni, 19 anni, non è un ripiego, no. È una scelta di vita che deve essere rispettata, perché è un nostro modo che noi abbiamo di lavorare, ma perché è una nostra, ripeto, scelta di vita. E del resto questo è il paese, tra tutti i paesi avanzati, che ha la più alta percentuale di autoimpiego, cioè questa propensione si affianca a un'elevatissima percentuale di imprenditorialità giovanile, anche quella la più elevata tra i paesi industrializzati, è una specifica proprio del nostro mercato del lavoro, una percentuale così elevata di autonomi, non solo di professionisti, di tutte le professioni autonome. Però questa è una cosa che, giro subito la domanda all'onorevole Gribaudo, ha sentito la telefonata, dice si ha come l'impressione che voi ci conosciate poco. Ovviamente ci sarà chi conosce meno la loro realtà, c'è chi qualcuno che quella realtà la conosce. Volevo solo ricordare che, a proposito di equo compenso e quanto veniva citato prima, è stato proprio uno dei primi atti parlamentari. Naturalmente penso che le nuove leve, diciamo così, del Partito Democratico, ma non solo, appunto, in un lavoro abbastanza condiviso, invece abbiano pienamente coscienza di quello che è il mondo del lavoro, che è cambiato e che in qualche maniera naturalmente abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Tra l'altro ho letto che si parla in questi stessi provvedimenti di un passo avanti anche, per esempio, per il congedo di maternità per gli autonomi, quindi insomma sì, anche questo dovrebbe appunto essere nel decreto delegato del Job Act, che dovrebbe uscire appunto il prossimo venerdì, con degli evidenti miglioramenti per le condizioni di maternità per le donne, non solo. Poi naturalmente volevo solo precisare che sicuramente, secondo me, essere di sinistra significa proprio occuparsi di quelli che sono i nuovi deboli, e per l'appunto le partite IVA certamente, proprio per le cose che venivano dette prima, rappresentano questa categoria, quindi ritengo che sia assolutamente doveroso impegnarsi in questa direzione. Allora, Emanuele da Bologna, però hai pochi secondi. Prego, Emanuele. Buonasera, guardi, buonasera. Io sono un autonomo, sì, e da qualche anno mi occupo di recupero crediti. Mm. Offro i miei servizi alle banche, alle finanziarie, e sostanzialmente non siamo riconosciuti dallo Stato. Non abbiamo nessuna tipologia di tutela, ogni spesa che abbiamo non la possiamo dedurre né detrarre, non come in realtà fanno gli agenti di commercio. Sì, la disciplina è completamente diversa, non c'è dubbio. Migliaia di persone che siamo qui. Io, Emanuele, io la ringrazio perché nel dirlo facciamo riflettere chi a casa è convinto che invece tutti gli autonomi detraggano tutto. Non è affatto vero. Quindi questo è un altro contributo perché tutti riflettiamo e non ci facciamo dividere, per così dire. Grazie anche al suo impegno, non solo per essere con noi oggi pomeriggio, a Chiara Gribaudo, e grazie a Marinetti Nonin, ad Acre, a tutte le associazioni che si sono battute e che il governo ha ascoltato. Bontà sua, continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.